Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Le infrastrutture e i trasporti come strumento di progresso sociale, crescita economica e tecnologica, accesso ai servizi e integrazione. Sono questi i pilastri della dichiarazione dei ministri che hanno partecipato al G7 dei trasporti, concluso giovedì a Cagliari. Due giorni che hanno visto al centro del dibattito il tema della connessione, della connettività e della sostenibilità. Obiettivo comune è quello di mettere a confronto le migliori pratiche attraverso un gruppo di lavoro che condividerà le proprie esperienze per pianificare, finanziare e dare vita a nuovi progetti infrastrutturali, coinvolgendo anche stakeholder e realtà locali. Senza tralasciare però le tante opportunità offerte dalle nuove tecnologie in termini di sicurezza, sostenibilità ambientale ed efficienza. Anche in questo caso i ministri del G7 hanno deciso la via della cooperazione, puntando sui veicoli connessi e a guida autonoma, con una richiesta: lavorare per portare avanti la ricerca e le sperimentazioni, eliminando le possibili barriere normative a livello internazionale e nei singoli paesi. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, si è svolto a Cagliari questa settimana il G7 dei trasporti, il primo sotto la presidenza italiana. Tanti gli appuntamenti e gli incontri organizzati in Sardegna, al centro del dibattito le infrastrutture, il tema della mobilità, ma anche quello della logistica. Il presidente di Conftrasporto, Paolo Gè, al microfono di Andrea Ferro, analizza la situazione dei trasporti, ma soprattutto dà la sua ricetta per risolvere i problemi del settore. Pochi porti sui quali intervenire, realizzando le infrastrutture necessarie a velocizzare quelle che sono le operazioni portuali, allora la parola interconnettere comincia ad avere un significato. Eliminare le strozzature del centro. Se non eliminiamo le strozzature del centro, l'economia del mezzogiorno soffre, non riuscirà a arrivare sui mercati europei, e quindi noi non abbiamo interconnesso il lato tirrenico con il lato adriatico, noi non abbiamo interconnesso realtà importanti del sistema produttivo che operano nel centro del paese con quelli che sono i mercati del nord Italia, del sud Italia e dell'Europa. Ecco, allora io dico, individuiamo alcuni interventi con le risorse che sono disponibili e muoviamoci rapidamente in quella direzione. Se noi non liberiamo Genova, il terzo valico e quindi la possibilità di portare le merci da sud a nord e non che continuino a venire da Rotterdam in Italia, noi non lo faremo. Se non sciogliamo il nodo di Tortona, le merci scenderanno da Rotterdam e andranno verso la pianura padana e verso est. La stessa cosa è Trieste. Se non creiamo il collegamento di retroportualità rapida a Trieste, beh, noi perderemo l'opportunità che forse potrebbe arrivarci dalla Via della Seta e probabilmente creeremo invece l'interesse di qualche paese a fermarsi al porto del Pireo e utilizzare magari una futura strada balcanica, via ferro, via strada, bypassando ancora una volta l'Italia. Allora bisogna che ci fermiamo un attimo a pensare cosa possiamo fare per intervenire su alcuni nodi fondamentali che creino competitività, che creino una mobilità sostenibile, che creino realmente l'interconnessione del paese che oggi invece non è ovviamente interconnesso. Autotrasporto, l'indirizzo della Commissione in termini di cabotaggio va verso una sostanziale liberalizzazione, la cosa chiaramente non vi piace. Noi non siamo d'accordo su due cose essenzialmente che riteniamo gravi della proposta sul pacchetto stradale. Vi sono alcune cose che non sono negative e che vanno anche qui prese nella dovuta considerazione. Mi riferisco all'intervento per esempio sui tempi di guida e di riposo, su come gestire i riposi. Mi riferisco all'obbligo di stabilire una sede nei paesi dove vai ad operare, no? Ma sul cabotaggio, anche qui, noi siamo favorevoli come autotrasporto, a una condizione, che prima si realizzino parità di condizioni e quindi parità di competitività. Cioè, noi siamo schierati dietro al ministro Del Rio e gli altri 8 ministri europei che hanno sottoscritto il 31 gennaio il protocollo a Parigi di alleanza per la strada. Allora, fin tanto che questo non è realizzato, noi non siamo assolutamente disposti ad accettare una liberalizzazione del cabotaggio, perché prima investirebbe le imprese che operano nel nord-est del paese. Allora noi diciamo sì al cabotaggio, però dobbiamo prima creare le condizioni di omogeneità. Secondo aspetto, consentire il noleggio al conto proprio è un errore che è esattamente contrastante con quella che è la filosofia europea e nazionale di ridurre il traffico e di rispettare l'ambiente. Quindi questa è un'altra norma che secondo noi va cancellata. Cabotaggio, parità di condizioni e no al noleggio al conto proprio. Porti, Conftrasporto, Confcommercio sta organizzando un tour. Sì, noi partiremo il 28 di giugno da Napoli, dove faremo un'analisi di quella che è la situazione del porto di Napoli. Andremo ad affrontare anche alcune tematiche non solo territoriali ma anche di carattere generale. Beh, viva Dio, sono passati alcuni mesi e non abbiamo ancora il comitato di coordinamento, il provvedimento che consente di coordinare queste iniziative. Se non si crea il sistema, evidentemente non ci si coordina, e se non ci si coordina noi consentiamo alla fantasia molto spesso molto elevata di alcuni presidenti di autorità portuali che decidono di operare al di fuori di quello che deve essere invece uno schema razionale che risponda ad una logica. Questo non va bene, perché questo non aiuta il sistema portuale, non aiuta l'Italia, non aiuta gli operatori, e inoltre noi vorremmo che gli operatori fossero ascoltati. Poi la decisione spetta chi ha la responsabilità politica, ci mancherebbe altro, però il coinvolgimento nei comitati di partenariato ha questa logica: sentire dagli operatori le esigenze e trovare le soluzioni che spettano, ripeto, all'autorità investita. Quando poi vediamo che l'autorità investita decide addirittura di aderire ad un'associazione di privati, ci domandiamo se abbiamo capito il senso profondo della riforma che il ministro Del Rio ha voluto fare. Questa è un'iniziativa che risponde ad una logica imprenditoriale, ci mancherebbe altro, legittima, però non ha senso ed è in contrasto con un disegno di sistema. Ospite d'eccezione a Cagliari, la commissaria europea ai trasporti Violeta Bulc, alle prese in queste settimane con una profonda revisione delle regole europee dell'autotrasporto. Ascoltiamola ai nostri microfoni. La gestione delle strade è una di quelle aree del settore dei trasporti da cui stiamo ricevendo molte indicazioni dagli Stati membri, dai membri del Parlamento, dai cittadini, dalle imprese, in quanto in passato tale gestione non è stata realmente ben seguita. E ovviamente per assicurarci che i nostri cittadini possano viaggiare nella maniera migliore, ma soprattutto perché i nostri sistemi logistici possano essere realizzati nel modo più efficiente, dobbiamo cominciare ad affrontare queste problematiche. So through the discussion with our stakeholders we identify those that need to be addressed. Attraverso i dibattiti con gli stakeholders abbiamo identificato le questioni che hanno bisogno di essere affrontate urgentemente e posso indicare quelle che abbiamo identificato. Poi ovviamente abbiamo preparato le risposte appropriate in base al livello europeo, perché posso dire già da ora che sono tutte questioni del mercato interno. First of all we wanted to make sure that we address the fairness and competitiveness. Prima di tutto volevamo assicurarci di affrontare la questione con correttezza e spirito di competizione, il che significa che ci dovranno essere condizioni e regole chiare e uguali per tutti e che gli organi di controllo delle strade facciano bene il loro lavoro. L'altra questione riguarda le attività necessarie per decarbonizzare il trasporto europeo. Nel complesso contribuiamo al 24% delle emissioni CO2 e abbiamo bisogno di fare bene il nostro lavoro. Quindi l'altra parte di questo pacchetto di mobilità, che è venuto fuori il 31 maggio, ha a che fare